2024 di Enrico Pagliarini. Puntata del 14 e 15 agosto 2010, benvenuti o bentornati a 2024, il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Il nostro indirizzo di posta elettronica, il nostro indirizzo digitale 2024@radio24.it. Anche questa puntata, vi ricordo, sarà disponibile attraverso il sistema podcast di Radio 24, quindi disponibile a breve sul nostro sito internet. E se vi abbonate gratuitamente al servizio podcast con i software che riescono a gestire il servizio podcast, come ad esempio iTunes oppure iTunes, che è un sistema multipiattaforma molto interessante, beh, potete scaricare settimana dopo settimana il file aggiornato della nostra puntata. Tra poco parleremo del mercato della telefonia mobile. Adesso invece una notizia che arriva dagli Stati Uniti, dove la settimana si è aperta con una proposta fatta al Congresso di Washington, il Parlamento degli Stati Uniti, da Google e da Verizon, uno dei più grandi operatori di telecomunicazioni americane. Le due aziende collaborano soprattutto nel settore della telefonia mobile, perché in America è Verizon ad avere l'esclusiva di alcuni telefoni con sistema operativo Android, quello di Google, come la serie Droid di Motorola. La settimana si è aperta così e si è invece conclusa con le proteste di circa un centinaio di persone poche ore fa davanti agli uffici californiani di Google nella Silicon Valley a Mountain View, dove sorge, dove ha sede il famoso Googleplex, quindi il quartier generale di Google. Perché hanno protestato? Beh, le proteste sono state organizzate per criticare la proposta fatta ad inizio settimana, di cui dicevamo poco fa. Il tema è la cosiddetta network neutrality, cioè la neutralità della rete, cioè il principio fondamentale su cui si basa Internet. Ovvero che chi gestisce una rete di telecomunicazioni, quindi che gestisce un pezzo di Internet, deve trattare tutto il traffico allo stesso modo, senza discriminazioni, che siano fotografie, che sia una email, che sia un video, tutto va trattato allo stesso modo. È il principio su cui è nata la rete Internet, grazie al quale anche Google e tutte le grandi società, ma in modo particolare Google, è cresciuto fino a diventare la più importante industria della rete. Che cosa propongono Google e Verizon? Perché siamo a livello di proposta, alcuni hanno parlato di un accordo. Beh, c'è un accordo solo sulla proposta. Confermano il principio della neutralità della rete per quella che potremmo definire la Internet pubblica, ma vorrebbero che ci fosse un trattamento privilegiato per alcuni contenuti, chiamiamoli premium. Viene fatto l'esempio della telemedicina, che dovrebbe avere priorità sul resto del traffico, ma è evidente che questa è un po' una scusa per sostenere questa tesi. È evidente che le due aziende sono più interessate a servizi di intrattenimento che potrebbero far pagare in cambio di una maggiore affidabilità del servizio. Quindi Google e Verizon dicono: vorremmo poter tranquillamente offrire ai nostri consumatori servizi a pagamento, e in quel caso la network neutrality non verrebbe seguita, perché quel traffico verrebbe privilegiato rispetto all'altro. In più, dicono le due società, la neutralità della rete non deve valere per i servizi wireless, cioè quelli di telefonia mobile. E badate bene, Internet sta crescendo in tutto il mondo grazie soprattutto alla diffusione dei servizi dati su telefonia mobile, quindi questo è un settore dove sarebbe grave che la neutralità della rete non venisse seguita. Per molti osservatori si tratta di una proposta che non va nella direzione giusta. Alcuni parlano di una proposta molto grave che mina le basi di Internet così come la conosciamo oggi. Diciamo che per ora, per noi in Italia, interessa soprattutto il dibattito sui principi più che le conseguenze, perché l'ecosistema delle telecomunicazioni negli Stati Uniti è molto diverso, va ricordato questo, da quello europeo, dove esiste una regolamentazione abbastanza forte del settore. C'è chi dice che non è sufficientemente forte, c'è chi dice che invece è fin troppo forte e severa. Comunque una regolamentazione così manca agli Stati Uniti, ci stanno lavorando a Washington ed è proprio per questo che arriva la proposta di Google e di Verizon. Giusta, non giusta? Lo chiederemo ai nostri esperti nelle prossime settimane. Faremo un dibattito sul tema, che sicuramente è uno dei temi fondamentali per i prossimi anni, così come lo è già stato soprattutto per gli addetti ai lavori in questi ultimi mesi. Sicuramente, questo è un dato interessante, è un po' sospetto che i principali operatori di telecomunicazioni al mondo siano favorevoli a questa proposta fino alla nostra piccola e locale Telecom Italia, che si è detta abbastanza favorevole a questi principi proposti da Google e da Verizon. Adesso parliamo del mercato della telefonia mobile. Ci sono nuovi dati che ci permettono di commentare l'andamento del mercato più interessante quando parliamo di tecnologia, cioè quello dei dispositivi mobili, telefonini, smartphone in modo particolare, e sempre più smartphone. Sono dati comunicati in settimana da Gartner, che stima una crescita del mercato che sfiora il 14% nell'ultimo trimestre. Pensate che sono stati venduti 325 milioni, più di 325 milioni di telefoni. Naturalmente dietro ai numeri ci sono, come dicevo, molte considerazioni da fare anche per capire come si stanno comportando i marchi che noi vediamo in negozio, che magari abbiamo anche in tasca sotto forma di telefonino, di terminale. È con noi Carolina Milanesi, che da Londra guida la divisione che è responsabile delle ricerche sulla telefonia mobile all'interno di Gartner. Bentornata 2024. Grazie, un piacere. Dicevo che questo è un numero, 325 milioni di telefoni, molto elevato, anche perché se lo moltiplichiamo per l'anno, quindi facciamo i quattro trimestri, insomma superiamo il miliardo di telefoni, ci avviciniamo a 1.300.000, 1.400.000, poi vedremo alla fine dell'anno quanto arriveremo. Sono in effetti numeri che ci fanno capire che il mercato torna a crescere alla grande, o c'è qualche distinguo da fare? Io ho letto anche che voi fate un appunto sui margini degli operatori, quindi forse non tutto brilla. No, esattamente questo. La crescita a livello di volume senz'altro è positiva, e se la paragoniamo all'anno scorso, dove eravamo nel pieno della crisi economica, sicuramente le cose stanno andando meglio. Però quello che abbiamo visto è che appunto per la crisi economica dell'anno scorso i prezzi erano scesi in maniera più forte di quello che ci si aspettava. I produttori di telefoni, per riuscire a vendere, hanno fatto scendere di prezzo alcune delle caratteristiche più interessanti, come per esempio la tecnologia touch per lo schermo, oppure le fotocamere con megapixel più alte e così via. E adesso che anche da un punto di vista di consumatore magari c'è un pochino più di ottimismo per quello che possono essere le cose, con ovviamente eccezioni come possono essere la Grecia, l'Italia, l'Inghilterra, che al momento hanno dei problemi a livello finanziario che non economico, ma senz'altro un ottimismo c'è. Questi consumatori non sono così forzati a dover spendere più soldi, perché comunque non c'è mai stato un ritorno ai prezzi che vedevamo prima del 2009, e questo ovviamente ha un impatto negativo su quello che sono i margini per i produttori. L'altra parte è che la competizione è veramente molto molto accesa, specialmente nella fascia degli smartphone. I dati che stiamo commentando sono a livello globale, a livello mondiale, con naturalmente delle differenze tra paese, tra continente. Queste vendite, comunque il buon andamento per quanto riguarda i volumi, è guidato dall'Asia o ci sono segnali buoni anche in Europa, negli Stati Uniti, nelle Americhe? Sia nelle Americhe che in Europa, diciamo che il trimestre è rientrato con una crescita moderata, ma un fattore positivo, diciamo. Senz'altro l'Asia è quello che ha fatto un po' la parte del leone per la crescita totale, ancora paesi come l'India e la Cina, ma anche paesi magari più piccoli ed emergenti come possono essere il Vietnam piuttosto che il Pakistan. Diamo un'occhiata anche ai marchi, ai nomi. Prima in classifica rimane con un buon margine Nokia, che in questo trimestre voi indicate con una quota del 34,2%, scende un pochettino, ma che cosa si può dire di Nokia, che tiene sul mercato, o comunque questo è un ulteriore segnale di perdita a livello globale? Ma questo secondo me è un ulteriore segnale che ci sono comunque dei problemi alla Nokia, come avevamo accennato in passato, nonostante diciamo la quota di mercato rimane del tutto rispettabile, la parte alta è la parte che sta soffrendo di più, e quando parlo di parte alta mi riferisco alla parte degli smartphone e dei device più costosi. È questo dove Nokia ha sicuramente perso passo e si sente così fronteggiata da altri giocatori del mercato come Apple, come diversi adesso costruttori di telefono che utilizzano Android per cercare di portare sul mercato degli smartphone molto più efficienti. La conferma di quello che tu dicevi, c'è una perdita di 10 punti percentuali sul diciamo nella fascia degli smartphone, guardando al sistema operativo Symbian, che è di fatto quello che viene utilizzato da Nokia. Sì, esatto, e a dire la verità la situazione è un attimino peggiore di questo per la Nokia, perché in quel numero di Symbian c'è questo trimestre il telefono di Sony Ericsson che si chiama Satio, che effettivamente ha aiutato un pochettino a migliorare la situazione. Diciamo che per quanto riguarda l'analisi di quello che sta succedendo a Symbian ci sono due fattori. Uno è questo di cui dicevo della preoccupazione che ci sono a Nokia nella fascia alta, ma l'altro è senz'altro che il mercato ha molti più competitori adesso che non quando abbiamo incominciato a parlare di smartphone nel 2003. Poi parliamo in modo più approfondito del segmento degli smartphone. Sempre per quanto riguarda i nomi che tutti conoscono, Samsung è alla posizione numero 2 con un 20%. Si sta comportando bene l'azienda coreana o c'è qualche cosa che non funziona? No, per adesso diciamo che la performance rimane costante, non hanno avuto un gran incremento di market share, in alcuni mercati hanno magari utilizzato una strategia di prezzo, un mix di prodotti per cercare di incrementare appunto il market share totale a discapito magari un attimino dei margini, però è una cosa che vediamo temporanea, intanto che aspettano che il loro prodotto adesso un po' di avanguardia, che è il Galaxy S, incomincerà a vendere in volume nel terzo trimestre. Questo è un prodotto che ha un sistema operativo Android. Samsung come va su questo segmento? Perché nella classifica che voi fate relativa agli smartphone vengono citati sistemi operativi e quindi è poi difficile capire all'interno, ad esempio, di Android, che viene utilizzato da più produttori, come vanno le singole marche. Come si sta comportando Samsung da questo punto di vista, o comunque quali sono, diciamo, i brand che beneficiano di più da Android? Sì, se partiamo dalla seconda domanda che mi hai fatto, quando guardiamo ad Android, il brand che contribuisce di più è ancora HTC al momento. Dopo HTC viene Motorola, che magari per noi qui in Europa è un po' difficile da capire, perché l'attenzione comunque di Motorola in Europa è ancora limitata e la maggior parte delle loro vendite rimane limitata all'America. E dopo questo incomincia a vedere Sony Ericsson e LG e Samsung. Quindi per quanto riguarda Samsung si stanno incominciando a muovere un attimino più in maniera più promettente adesso che hanno il Galaxy S, che è stato un prodotto veramente ben, che ha avuto una bella risposta dal punto di vista di attenzione sia della stampa che del consumatore. Per Samsung Android è solo una parte, diciamo, del loro focus, perché poi dall'altra parte hanno Bada, che è il loro sistema operativo che adesso hanno aperto per gli sviluppatori e che è iniziato, diciamo, abbastanza bene a livello di vendite. Hanno fatto hanno superato il milione del primo telefono Wave, che era stato annunciato, se ti ricordi, a Barcellona. Però dal punto di vista di utilizzo, tutta la parte dell'ecosistema sistema e anche, diciamo, l'attenzione che gli sviluppatori hanno dato a questo sistema operativo è ancora abbastanza poco. Adesso ci fermiamo per un minuto, questo è 2024, vi ricordo l'indirizzo di posta elettronica se volete comunicare con noi anche per alcune proposte per le prossime settimane: 2024, quindi 2024, @radio24.it. Ci risentiamo tra un minuto. Due. 2024. Una puntata con nuovi dati che riguardano il mercato della telefonia mobile. È sempre molto interessante guardare e osservare le classifiche dalle quali, seppur a livello globale, a volte si scoprono cose che guardando al proprio territorio, al proprio stato, anche alla propria cerchia di amici o di colleghi non si potrebbero capire. Magari abbiamo amici che hanno tutti smartphone di una certa marca, di un certo tipo, e scopriamo che invece quella marca è meno forte a livello globale sul mercato della telefonia mobile. Questo è un mercato sempre molto interessante, con margini, come abbiamo sentito poco fa, in lieve calo, ma che offre sempre molte sorprese e molte soddisfazioni per gli operatori, soprattutto per quelli che producono i telefoni, ma sempre più per chi produce i servizi che vengono utilizzati su questi telefoni. Il caso della crescita molto forte degli smartphone è emblematica. Su questo segmento si stanno concentrando le attenzioni del mercato, perché quei telefoni innanzitutto costano molto di più rispetto agli altri, quindi in quel segmento di mercato ci sono margini più elevati, ma su quei telefoni si possono erogare molti servizi, si possono vendere applicazioni, si possono vendere prodotti con il crescente commercio elettronico in mobilità. Gli operatori di telefonia mobile possono vendere contratti per l'utilizzo di dati in mobilità, quindi internet in mobilità, insomma un mercato che sta nascendo proprio in questi anni. È con noi Carolina Milanesi, che guida da Londra a livello mondiale il settore che si occupa della telefonia mobile, detta all'inglese dei mobile devices, per Gartner, che è una delle principali società di analisi, che questa settimana ha pubblicato i dati di vendita del mercato della telefonia mobile a livello mondiale. Tornando alla classifica, citiamo LG, che ha un buon 9%, insomma, a livello globale. Al quarto posto Research in Motion ha un 3,4%, e qua cominciamo ad andare in una parte dove le quote di mercato sono piuttosto piccole, però mi soffermerei proprio su Research in Motion, su RIM, che forse pochi conoscono con questo nome, molti la conoscono per il prodotto, il BlackBerry, perché BlackBerry a livello di sistema operativo è il secondo per quote di mercato dopo Symbian. Quindi, vedendo le classifiche, le cose stanno andando bene, però vorrei anche un tuo commento su quello che sta succedendo in giro per il mondo. Si sentono notizie, abbiamo commentato l'annuncio degli Emirati Arabi Uniti, dell'Arabia Saudita, dell'India, dell'Indonesia, insomma di altri paesi che hanno cominciato a sollevare qualche dubbio sulla troppa sicurezza che ha RIM. Cioè, ribadiamo e ripetiamo quali sono le notizie: sostanzialmente questi stati sono preoccupati perché il sistema di messaggistica di email del BlackBerry è troppo blindato, molto sicuro dalla parte degli utenti, ma non permette di essere visto e controllato da parte degli stati. Questo potrà incidere, o sta già incidendo, sulle quote di mercato, sulle vendite di BlackBerry in giro per il mondo? Guarda, le vendite che vengono da questi paesi sono ancora molto molto limitate. Se guardiamo al Medio Oriente e Africa come regione totale, RIM fa meno dell'1% delle vendite totali, quindi secondo me a livello di vendite non sarà un grosso problema, però sta diventando un problema di marketing, perché secondo me RIM non ha... non ha preso il toro per le corna spiegando effettivamente quello che fanno, e sono usciti con delle affermazioni che secondo me hanno creato più dubbio a quelle aziende che stanno usando un sistema di BES, quindi un network sul BlackBerry e sul sistema che RIM offre, che non invece aiutarle a capire che cosa sta succedendo. E la nostra come capiamo noi la situazione è che ci sono, a seconda di quello che usi, un livello di sicurezza diverso, dipendente se tu sei un cliente individuale, quindi un consumatore che usa un BlackBerry legato a un operatore, piuttosto che un'azienda che ha tutto il pacchetto che viene dato da RIM, che è a un livello di sicurezza molto più alto. E quindi con questi governi stanno cercando di arrivare a un diciamo a un compromesso, diciamo, un compromesso esatto, dove le aziende non verranno assolutamente toccate, ma a livello di consumatore individuale il governo avrà accesso alle chiavi per vedere quello che devono vedere a livello di contenuto. Potremmo dire vittime della troppa sicurezza, cioè il sistema è talmente blindato che preoccupa questi stati, e questo forse avrebbero dovuto utilizzarlo a livello di marketing. Sì, e anche a livello di vendite che si stanno muovendo sempre più nel consumatore, quindi magari questi governi sentono un attimino più la necessità di governare appunto il consumatore singolo piuttosto che le aziende. Sì, quindi potremo anche vedere questa notizia come conferma della diffusione sempre più massiccia di questo sistema operativo. Il 18% è comunque una buona quota se guardiamo a tutto il mondo. Abbiamo prima commentato Android, che è cresciuto moltissimo perché da un misero 1,8% dello scorso anno, in questo trimestre siamo passati al 17,2%. Al quarto posto, e parliamo sempre di sistemi operativi, ma naturalmente parliamo anche di brand, c'è il sistema operativo dell'iPhone, che forse in questo caso, prima abbiamo parlato di marketing, della capacità di far parlare di sé i propri prodotti, in questo caso si parla molto di iPhone, la quota di mercato invece è la quarta, quindi non così come molti potrebbero pensare. Sì, bisogna tenere sempre in considerazione che i prezzi che Apple tiene per mantenere i margini che hanno sono ben diversi da quelli che spingono il mercato. Se fai un paragone tra il prezzo medio di uno smartphone della Nokia, che è intorno ai $159, verso un prezzo di iPhone che è $595, vedi perché la quota di mercato rimane più piccola. Quindi quota di mercato più bassa, però margini più elevati. Esatto. Si può scegliere, o a volte si è anche un po' costretti dal passato, dalla storia dell'azienda. Beh, dopo questi quattro sistemi operativi, praticamente non c'è più nulla, perché Windows Mobile, e mi chiedo ancora chi compra Windows Mobile in attesa di vedere il 7, ha un 5% a livello globale, 2,4% per Linux, e gli altri hanno insomma un quasi inesistente 1,8%, cioè la parte grossa del mercato, se guardiamo al segmento degli smartphone, la fanno quattro brand e quasi quattro produttori. Poi in realtà per Android abbiamo detto che ci sono tanti altri produttori. Questo che segnale è per il mercato, per il futuro del mercato? Ma un segnale finalmente di consolidamento, e dico finalmente perché c'è necessità effettivamente nella parte smartphone di consolidare questi sistemi operativi, però con diciamo una puntualizzazione che magari in queste marche che vediamo, questi sistemi operativi, potranno essere tre o quattro, ma non saranno magari necessariamente gli stessi in tutte le regioni. Se prendi per esempio il Nord America adesso, Symbian non gioca assolutamente in questo mercato, perché comunque Nokia non ha per niente una presenza forte, e quindi ci potranno essere delle piccole differenze di questo tipo, ma sicuramente non è sostenibile avere tutti i sistemi operativi che abbiamo adesso. La notizia più recente è stata quella di Vodafone, che ha deciso, dopo il famoso 360, dove avevano due telefonini basati su Limo Foundation, hanno deciso di ritirare questa iniziativa, e continueranno con 360, ma basato sui sistemi operativi più grandi. Quindi Android, eccetera, eccetera. Esatto. Un'ultima domanda relativa al mercato cinese, o comunque i mercati emergenti, perché vedo nella classifica che per la prima volta avete inserito un nome che io francamente non avevo mai sentito, G5, e poi anche ZTE o ZTE, che comunque già da un po' di tempo conosciamo, anche se a livello globale ha quote di mercato molto basse. In Italia è presente, ricordiamo che ha fatto anche accordi con alcuni brand italiani, non ultime le Poste, che vendono un telefonino realizzato da ZTE, che sono appunto cinesi. Stanno effettivamente crescendo a livello globale, o rimangono una presenza in Cina e così un po' spot qua e là in giro per il mondo? Diciamo che quando parliamo di produttori cinesi ci sono due categorie, ci sono le brand come ZTE e come Huawei che conosciamo, come dicevi tu, per delle iniziative qui in Europa e per comunque la loro come lavorano con operatori come per esempio Orange piuttosto che Vodafone, e poi ci sono invece dei produttori cinesi che sono delle brand meno note come per esempio G5 che lavorano facendo dei cloni di altri telefoni, quindi prendono telefoni dei produttori di prima fascia e fanno dei telefoni che assomigliano molto a questi, ma vendono a un terzo del prezzo. E G5 è un esempio di questo, sono praticamente 10 aziende cinesi che si sono unite in un consorzio sotto la marca G5, basate da Hong Kong, e hanno adesso come mercato principale l'India e sono diventati la terza marca in volume in India. Incredibile, uno potrebbe pensare. Fanno anche l'iPhone? Non hanno un iPhone specifico, ma è interessante che questa domanda, perché un collega che è appena ritornato dalla Cina mi ha riportato un iPhone scritto in maniera diversa ma esattamente uguale per $50. Incredibile. E con che software? Con un software loro, non è lo stesso ovviamente, anche ci sono differenze del tipo, per esempio non puoi utilizzare la tua mano ma devi usare una stylus per usare lo schermo, la batteria è rimuovibile, ma se tu lo vedi dal punto di vista di hardware e anche persino il packaging, quindi la confezione, non potresti dire la differenza. Incredibile. Beh, si conferma insomma che in Cina si copia tutto e si trova soprattutto di tutto. Grazie a Carolina Milanesi per essere stata con noi. Buon lavoro, visto che in Gran Bretagna funziona un po' come negli Stati Uniti, non c'è la follia d'agosto in cui tutti chiudono e vanno in vacanza come accade qua, ma si continua a lavorare, o mi sbaglio? No, assolutamente, ferie saranno a settembre quest'anno. A presto e buon lavoro. Arrivederci. E così concludiamo questa puntata di 2024, grazie come sempre per la vostra attenzione, grazie anche a tutte le persone che ogni settimana downloadano, scaricano dal nostro sito internet il file MP3 della nostra trasmissione, tra poco disponibile anche questa settimana, grazie in regia e grazie anche per il podcast a Carmelo Lauricella. Io sono Enrico Pagliarini, il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Ci sentiamo la prossima settimana, sempre alle 16 del sabato nel pomeriggio di Radio 24, oppure alle 20:30 la domenica sera, magari mentre molti tornano dalle vacanze. Un buon ascolto con i nostri programmi. You are disconnected.